Torniamo in voce, come preannunciato abbiamo qui con noi in diretta una donna del centro antiviolenza di Lecce. Pronto, ciao? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, innanzitutto grazie per essere qui in collegamento con noi questa sera. Noi insomma questa sera stiamo parlando di sopravvivenza alla violenza maschile e a quella del patriarcato. Mi sembra che voi siete in una situazione abbastanza difficile, se ci vuoi raccontare. Sì, abbiamo come centro antiviolenza, credo di aver subito sia noi operatrici ma le donne utenti, una violenza estrema da parte dell'istituzione, dell'amministrazione comunale. Il 4 ottobre c'è stato lo sgombero coatto di una parte del centro antiviolenza. Cos'è accaduto? È accaduto che noi come centro antiviolenza dal 2004 siamo in convenzione con il comune di Lecce e abbiamo in comodato d'uso la sede presso l'ex conservatorio di Sant'Anna, convenzione che si rinnova annualmente con l'assegnazione della sede. Nel 2015, a nostra insaputa, noi eravamo all'oscuro di tutto e non solo non siamo state interpellate ma non c'è stata notificata la delibera. Il comune adotta una delibera e per la riassegnazione degli spazi e ci toglie uno spazio vitale al centro antiviolenza, facendo venire meno gli standard strutturali e funzionali. Ce lo viene a dire attraverso un telegramma che ci preannuncia lo sgombero 4 esattamente a fine settembre. Scriviamo delle mail in virtù degli atti che avevamo in mano, ma ciononostante il 4 ottobre mentre c'erano le donne all'interno del centro con i loro figli, arrivano gli ufficiali della polizia municipale e danno il via allo sgombero coatto, intimando alle donne di uscire. Ovviamente in qualità di responsabile ho cercato in tutti i modi di far valere i nostri diritti con gli atti che avevamo in mano e la convenzione, e ad un certo punto loro hanno tirato fuori la famosa delibera. Quindi il sindaco, l'amministrazione comunale ha deliberatamente deciso volontà politica di togliere uno spazio vitale, e quindi noi siamo costrette ad operare in una sola stanza, tenendo conto che ovviamente essendo un centro antiviolenza i criteri della privacy sono venuti fuori, della sicurezza e del sostegno alle donne. Ma quello che è più grave, ripeto, è il modo, anche la maniera dello sgombero coatto, come se fossimo delle criminali. Hanno buttato fuori le donne, hanno buttato fuori i bambini che hanno assistito a così tanta violenza, e durante lo sgombero, di fronte alle mie urlo proprio di dolore, li supplicavo affinché questo non accadesse, anche perché in quel momento mi sentivo fortemente responsabile anche della presenza delle donne e dei minori. Il pubblico ufficiale ad un certo punto, dopo avermi apostrofata con una frase come fa a gestire un centro antiviolenza, poi prende il telefonino per minaccia di chiamare l'ambulanza per farmi fare un TSO. A quel punto potete immaginare quello che è accaduto in un centro. Siamo veramente rimaste scioccate. Comunque lo sgombero è stato portato a termine. Questo accadeva il 4 di ottobre, il 5 di ottobre sono state diffamate pubblicamente sulla stampa di abusivismo e di persone che non rispettano le regole. Dal 4 ottobre la diffamazione nei nostri confronti è continuata. Oggi siamo, o meglio poche ore, al 25 di novembre, da parte del comune silenzio assordante e nulla. Lo stato dei fatti è ancora questo. È emblematica come l'istituzione neghi l'esistenza, neghi l'attenzione, neghi l'azione verso un fenomeno così fortemente delicato quale è la violenza di genere. È una forma di violenza verso le donne di Lecce, del territorio, anche personalmente in qualità di rappresentante legale e di responsabile del centro, della struttura, e non posso far passare in silenzio, e combatterò fino alla fine per la revisione della delibera, della riassegnazione degli spazi, dell'abitare i luoghi pubblici da parte delle donne, e pretendo le scuse dell'istituzione, del sindaco, no, non a me. Io da lui non voglio nemmeno le scuse, ma alle donne della sua città, ai bambini e alle bambine che in quel momento erano presenti nel centro. Maria Luisa, ciao, ci stai lasciando davvero senza parole, se guardi le nostre facce sono estremamente allibite ed indignate. E, dicevi insomma che combatterete a fondo. Non ci fermeremo. E volevo sapere se prevedete qualche corteo, qualche incontro, insomma. Dunque, noi dalla più di una settimana, in previsione appunto del 25 novembre, ma lo facciamo così sempre, stiamo andando in giro, lo siamo anche in questo momento, stiamo tornando da Salice, Salentino, stiamo rientrando a Lecce, siamo la mattina nelle scuole per il cambiamento culturale, per incontrare i ragazzi e cercare di educarli al rispetto di genere, alla cultura di genere. La sera invece siamo in giro, siamo per convegni, tavole rotonde, siamo sul territorio per sensibilizzare. Domani mattina siamo all'Ipercop, poi siamo in una riunione con la CGL e poi il 26 saremo a Roma. Quando ritorniamo da Roma, poi decidiamo il da farsi. Le nostre avvocate stanno approntando un documento e poi a quel documento qualcuno dovrà rispondere, qualcuno si dovrà assumere le proprie responsabilità per quello che è accaduto, per quello che è successo. E per quello che è successo anche dopo con la diffamazione, diffamare le donne utenti operatrici di un centro mentre stavano svolgendo il loro lavoro e diffamare tutte le donne. E questo, sì, poi le donne si stanno organizzando, vogliono fare una manifestazione, hanno lanciato una petizione online di solidarietà, perché il luogo è delle donne e quel luogo alle donne dovrà essere restituito. Questo è un sacrosanto principio, questo è il sogno di tutti delle donne. Non abbiamo intenzione di fermarci, di arrenderci nella maniera più assoluta. Non abbiamo paura di nessuno, perché dobbiamo sapere il perché, senza una motivazione. Qualora ce ne fosse bisogno, la motivazione è una sola. Infatti. La violenza contro le donne affonda le sue radici nella discriminazione di genere. È una questione politica, una questione culturale, è una questione di discriminazione, è una questione di voler negare la negazione della violenza di genere. Per questo io non ci sto, noi non ci stiamo. Sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che lo scarto così grande tra la becerità delle istituzioni e le esigenze delle donne non può essere solamente disattenzione, non può essere solamente casuale. C'è una volontà precisa. Senti, comunque, tesoro, ti sento male o ti sento poco. Fateci sapere quando e se deciderete di organizzare appunto un momento di piazza, dateci la comunicazione anche per tempo, magari insomma Lecce è abbastanza lontana, ma magari cioè veramente la situazione è tale, l'indignazione è tale che potrebbe essere anche possibile spostarsi o comunque diffondere, continuare a diffondere la vostra storia. Sicuramente ci incontreremo anche il 26, vi verremo magari a cercare, a salutare, a portare la nostra solidarietà, perché comunque appunto una delle grazie. Armi che abbiamo è la solidarietà fra donne, quindi usiamola. Grazie, e questo è un abbraccio che ci state dando e in questo momento ne abbiamo bisogno dell'abbraccio di tutte le donne, e questo è importante per noi. Non siamo, sappiamo di non essere da sole. No, no, non siete sole. Lo sappiamo, e grazie. Buonanotte. Grazie a voi, ci vediamo al corteo, Maria Luisa. Ok, un saluto grazie a tutte. Di cuore. Ciao, salute le altre, ciao. Ok, ciao care, ciao.